24 mattino di Alessandro Milan. Le 7:29 minuti, cari ascoltatori, eccoci qua in diretta fino alle 9. Concludiamo questa settimana, per quel che mi riguarda concludiamo anche una stagione, nel senso che poi me ne vado un po' in vacanza, beato me, ma 24 mattino rimane, state tranquilli, continua anche tutto agosto. E allora, di che parliamo oggi nel nostro sondaggio? Nel nostro sondaggio parliamo di Belen, di Sanremo, di cocaina, questa vicenda che sta terremotando un po' la Milano. Bene, le inchieste, qualcuno ha detto, come nel caso Morgan, Belen che ha confessato in passato di avere sniffato, credo un paio di volte, non dovrebbe andare a Sanremo. Siete d'accordo? Cosa ne pensate? Radio24.it per votare. Ne parleremo poi alle 8:30 di questo tema e ora ci tuffiamo come di consueto nella lettura dei giornali in edicola. In primo piano. Questo venerdì 30 luglio, qualunque giornale voi abbiate intenzione di comprare oggi, troverete l'apertura dedicata al tema politico, vale a dire la rottura che c'è stata tra Fini e Berlusconi. Rottura definitiva Berlusconi-Fini, anche il Sole 24 Ore apre sull'attualità politica, il Cavaliere attacca, lasci la presidenza della Camera. Ma poi basta scorrere un po' tutti i vari quotidiani, per il Corriere rottura finale tra Berlusconi e Fini, per Repubblica Berlusconi caccia Fini, il PDL non c'è più. Vediamo, insomma, qualche titolo magari un po' più originale. Colpo di grazia, questo è il giornale. Oppure Libero, c'è un disegno di Berlusconi che dà un vero e proprio calcio nel sedere a Fini, fatti più in là. Caro Fini, mi consenta. Questo è il titolo di Libero. Per il Manifesto ci sono Fini e Bocchino in primo piano in foto. La purga delle libertà. Questo è il Manifesto. Mentre, forse il titolo più originale, il Riformista mette a mezza pagina tutto un necrologio gigante. Dopo una lunga agonia si è prematuramente spento il PDL di anni due. Ne danno il triste annuncio il papà Silvio, il patrigno Gianfranco, i triumviri Ignazio, Denis e Sandro, i familiari, gli iscritti, i militanti tutti. Il presente vale anche come ringraziamento. Roma, 29 luglio 2010. Insomma, avete capito, il tema politico domina le prime pagine dei giornali, così come gli articoli, i commenti che spiegano quello che è successo ieri. Il più efficace sicuramente come editoriale, quello di Stefano Folli, lo abbiamo sentito anche nel nostro GR, ne scrive anche in prima pagina del Sole 24 Ore, una vittoria di Pirro per il Premier, questo il titolo del fondo di Stefano Folli, che scrive: la logica politica suggeriva un accordo, almeno un patto di convivenza che stabilisse le regole della reciproca sopportazione tra Berlusconi e Fini. All'opposto c'era l'ipotesi della scissione immediata e concordata dei due tronconi, Forza Italia e AN, da cui era nato il Popolo della Libertà. Nella sostanza, al vertice del partito berlusconiano ha scelto invece una terza via, nessuna espulsione, ma una sfida frontale al presidente della Camera, una totale delegittimazione dell'uomo che avrebbe creato un partito nel partito. Può darsi che questa scelta berlusconiana sia efficace per regolare i conti con un avversario interno ormai intollerabile. Lo è molto meno per garantire all'esecutivo e alla legislatura un cammino sereno. Si potrebbe dire che il lungo e estenuante duello si conclude con la sconfitta di Fini, ma quella di Berlusconi è più che altro una vittoria di Pirro. È tutto da dimostrare, infatti, che ne verrà qualcosa di positivo per la stabilità e l'azione di governo. Aspettiamo di vedere cosa accadrà nelle prossime ore. Ma, scrive Folli, quanti andranno a costituire il gruppo autonomo nel segno del presidente della Camera? È un punto cruciale. Se a Montecitorio ci saranno all'incirca 15... che seguiranno Fini, essi costituiranno poco più di una spina del fianco. Se invece saranno una trentina o magari 35, allora l'ottimismo stentato del Premier dovrà fare i conti con una realtà amara. Insomma, una vittoria di Pirro, scrive Folli, potrebbe rivelarsi alla fine quella di Berlusconi, che ha deciso la linea dura e che conclude così il suo editoriale. Folli: da oggi comincia una nuova partita, non è detto che ieri notte Berlusconi abbia giocato al meglio le sue carte. Tra l'altro a pagina 2 e 3 è dedicato proprio il tema. Ovviamente ci sono due aspetti, quello dei retroscena, degli sfoghi raccolti Per esempio Berlusconi avrebbe detto: so che mi gioco il tutto per tutto, ma è quello che vogliono gli elettori. Qualcuno fa notare che il più tenero, quello che ha adottato la linea più morbida, è stato uno che un consigliere onorevole, l'avvocato di Berlusconi, Ghedini, che di solito è uno su alcuni temi molto dipinto come molto più rigido, che invece ieri ha detto: vorrei sommessamente ricordare che nella Costituzione italiana c'è un articolo che prevede la libertà di associazione di pensiero e un partito non può violare questi principi costituzionali. Quindi Ghedini che fa il moderato, ma anche la stampa fa notare che Berlusconi ieri è andato a una cena organizzata dal ministro Rotondi, avrebbe detto: dovevo togliermi un peso dallo stomaco e l'ho fatto. Questo è il titolo del retroscena di Amedeo La Mattina a pagina 3 della stampa: dovevo togliermi un peso dallo stomaco. Mentre per Repubblica il retroscena è dato da un Berlusconi che ora punta a cooptare l'UDC, un Berlusconi deciso a sistemare tutti i conti aperti, un Berlusconi che ieri, racconta Francesco Bei a pagina 5, è arrivato alla Camera, non ha neanche degnato di uno sguardo Fini, gli ha rivolto le spalle, poi ha parlato con Maroni e ha detto: al Senato avremo comunque la maggioranza. E seppure Fini riuscisse a provocare la crisi, diremo a Napolitano che non sosterremo nessun'altra soluzione se non il ritorno alle urne. Io sono un imprenditore, al rischio sono abituato. Un Berlusconi che, dice Francesco Bei, pensa proprio alle elezioni. Chi gli dice è stato un errore è un personaggio che in questi due giorni è rientrato ripiombato nel centro dell'agone politico, vale a dire Giuliano Ferrara, il direttore del Foglio, che con quell'intervista a Fini ieri ha cercato di ricomporre in extremis una frattura ormai insanabile. Ferrara, che è stato anche protagonista, no, di questa conferenza stampa di Verdini, nella quale ha sbraitato contro Claudia Fusani dell'Unità, e oggi rilascia un'intervista al Corriere, intervistato da Maria Teresa Meli. Giuliano Ferrara, il direttore del Foglio, dice: Silvio sbaglia, fa un errore, pagherà un prezzo notevole, perché è brutta l'immagine di un leader politico che caccia una persona che dice di pensarla in modo diverso da lui. Io gli ho sempre consigliato di non rompere, perché pagherà un prezzo troppo alto. Poi però Ferrara è anche un po' duro, no? La domanda delle domande la faccio io, e la faccia, chiede Maria Teresa Meli. L'anomalia Berlusconi ha prodotto delle cose importanti, ma ha ancora delle cose da dire al paese? Questa è la domanda che fa Ferrara. Berlusconi, e ora cito grandi personaggi della storia, ma non vorrei che questo fosse troppo eccitante per lui, non è Metternich che disegna una mappa e crea un sistema di equilibrio. Però vorrei dirgli: è dura essere Napoleone, che poi si sa com'è finito a Sant'Elena. Non puoi fare una crisi dietro l'altra. Alla fine di questa parabola berlusconiana ci doveva essere il lieto fine stabilizzatore. Se lui riuscisse in questa legislatura, ma mi sembra un po' tardi, a portare a compimento un processo di maturazione nel suo rapporto con le istituzioni, se facesse un po' pace coi vecchi meccanismi impolverati, sulle intercettazioni per esempio, poteva trovare una maggioranza presentando il DDL Mastella, ma niente, lui rimette sempre tutto in discussione. Ebbene, è un gioco molto rischioso che mette in luce che l'anomalia berlusconiana oggi produce più che altro instabilità. E questa è l'analisi di Giuliano Ferrara. Tra l'altro, io vi ricordo, ne parlerà Oscar Giannino alle 9 di questo tema, dunque vado, ecco, a fianco ai retroscena. Che cosa c'è? C'è il tema cruciale che Stefano Foglia ha anticipato nel suo editoriale, vale a dire: quanti seguiranno ora il presidente della Camera Fini, che tra l'altro ha detto: io rimango alla Camera, questa carica non è a disposizione del partito. E soprattutto, racconta il Corriere della Sera, è un Fini che dice: ora parlerò agli italiani. Chissà, forse farà una serie di interviste, ci possiamo aspettare una serie di interviste, chi lo sa. Sta di fatto che il tema è questo: quanti seguiranno Fini nelle formazioni di un gruppo autonomo? Per i berlusconiani sono pochi, per i finiani l'Unità li mette a pagina 7, da Italo Bocchino a Suad Sbai in ordine alfabetico, sarebbero 34 alla Camera. Forse si capirà già qualcosa oggi, forse Fini farà una conferenza stampa, abbiamo sentito, forse ci saranno i primi numeri, perché il tema è questo: sono quanti i numeri, poi in Parlamento la politica si gioca sui numeri. E allora che cosa sta succedendo secondo i vari giornali? Sta succedendo quella che i protagonisti chiamati da Berlusconi sdegnosamente non definiscono campagna acquisti, ma certo pare che Berlusconi stia incontrando un po' una serie di parlamentari, per esempio Daniela Melchiorre, che a pagina 6 del Corriere fa un'intervista: campagna acquisti, per favore, questo è volgare. Daniela Melchiorre è la leader dei liberal democratici riformisti che siede in Parlamento. Io sono stata invitata da Berlusconi, è vero, sono presidente dei liberal democratici, il nostro coordinatore nazionale è l'onorevole Italo Tanoni. E qual è la vostra dote? Gli chiede Fabrizio Roncone. Non capisco cosa intende per dote. Insomma, onorevole, quanti deputati e quanti senatori avete? Qui c'è la conta ormai. 4 deputati e un senatore. E Berlusconi che le ha detto? Beh, ci ha ricordato che noi liberal democratici fummo tutti eletti nelle sue liste. Insomma, ci ha chiesto, non ci ha fatto richieste precise, ma vi ha chiesto un impegno di fedeltà? Chiede Roncone. No, non ci ha fatto richieste precise, ma diciamo che l'ho trovato informissima. Un altro che secondo i giornali starebbe in qualche modo, ecco qua, secondo Libero, Riccardo Villari: sto iniziando un percorso verso il PDL, voglio andare in un partito dove c'è ancora spazio per fare politica, dove il garantismo è ancora un valore. A pagina 4 di Libero, secondo il Fatto Quotidiano a pagina 2, ne scrive Paola Zanca, è proprio la campagna acquisti, cioè Berlusconi ora, e ci sono proprio la foto di Daniela Melchiorre, di Riccardo Villari, di Italo Tanoni, il leader dei Lib Dem di Daniela Melchiorre, e insomma Berlusconi ora si stanno vedendo chi sta con Fini, chi sta con, perché quando ci saranno poi le votazioni cruciali bisogna vedere i numeri, no? E allora scrive Paola Zanca: fare il sindaco di Napoli è il suo pallino e forse per Riccardo Villari questa è la volta buona. Mercoledì mattina invece sono stati ricevuti a Palazzo Grazioli 2 papabili new entry, Daniela Melchiorre, che appunto ne parla il Corriere, e Italo Tanoni, entrambi ex diniani. Poi non so, c'è l'eletto all'estero, Antonio Merlo. Con chi andrà Antonio Merlo? Si chiede il Fatto. C'è Maurizio Grassano, che è appena entrato in Parlamento grazie alle dimissioni di Cota, ma siccome è uno indagato, la Lega l'ha isolato, dicendo non fa parte del nostro partito. Ecco, Maurizio Grassano, che è nel gruppo misto. Con chi andrà, si chiede il Fatto. Insomma, secondo il capogruppo dell'Italia dei Valori alla Camera, Massimo Donadi, c'è un suc in atto con Berlusconi, che sta facendo per Di Pietro invece quello che fa sempre: compra. E la questione sono i numeri. Quanti sono? Una quindicina, come dicono i berlusconiani, quelli che seguiranno Fini, o addirittura fino a 35 alla Camera e 12 al Senato, come giurano i finiani? In questo caso basta aspettare poco, perché poi dopo le carte vanno scoperte. Chi esulta, come detto, con il titolo Colpo di Grazia, su questo è Vittorio Feltri. Vittorio Feltri, vabbè, insomma, da mesi attaccava Fini, e inizia così oggi il suo editoriale: Deo gratias, salvo controordini, Gianfranco Fini dovrà fare le valigie e sloggiare dal partito. Per la verità Feltri, in qualcosa di un po' insolito, fa un'intervista breve alla Stampa, a pagina 5, nella quale dice: guardate che io in realtà su certe cose sono d'accordo con Fini. Tanto che l'intervistatore dice: mi scusi, ma lei lo attacca tutti i giorni. Sì, ma io su alcune cose, per esempio il testamento biologico, visto che io sono laico come lui è diventato, poi sono d'accordo che un extracomunitario che lavora in Italia da anni, ha la fedina penale pulita, ha una casa, possa avere il diritto a votare alle amministrative. Paga le tasse qui perché non dovrebbe votare. Il problema di Fini mi chiedo, la priorità è il voto agli extracomunitari? Quando brucia la casa non si sta a discutere sulla tinta del salotto. Quindi io lo critico politicamente, dice Vittorio Feltri, perché è una minaccia per la tenuta del governo. E infatti oggi Feltri cosa fa? La terza puntata con Gianmarco Chiocci, e ora gli ha affiancato anche Stefano Filippi, sullo scoop che ha tirato fuori lui, vale a dire la casa di Monte Carlo che una donna, morendo, lasciò al partito Alleanza Nazionale, e nella quale oggi vive, secondo il giornale, negli sviluppi di oggi, in affitto il cognato, tra virgolette, di Fini, Giancarlo Tugliani, che è il fratello della compagna Elisabetta Tugliani, del presidente della Camera. E ci sono due pagine, pagina 6, intervistano colui che ha fatto i lavori di ristrutturazione e che dice: i rapporti li tenevamo con Giancarlo Tugliani e l'architetto Blanchi, o Blanchi, non si sa se è italiano o francese. Giancarlo Tugliani era sempre presente sul cantiere, parla l'imprenditore che Stefano Garzelli, che è colui che ha fatto le ristrutturazioni. E poi Monte Carlo, ecco i conti segreti, secondo sempre il giornale a pagina 7. Il passaggio di proprietà sarebbe stato ricostruito così: questa casa, che era stata destinata al partito, è stata data prima a una società offshore, poi da questa a un'altra società offshore, tale Timara LTD, con sede a Santa Lucia, nei Caraibi, nella cittadina capitale di Castries, capitale sociale $1,000 americani, una storia molto recente, poco si sa ovviamente dei soci perché lì il segreto bancario è totale. Ma diciamo che continua il giornale ad approfondire questa vicenda della casa Monte Carlo. Anche Libero insiste dicendo che addirittura con Franco Bechis, il suo vice direttore, Fini si è fatto una legge per ereditare casa. È una vicenda che risale al giugno del 2000, una modifica dell'articolo 13 del codice civile con un solo scopo: consentire ad Alleanza Nazionale di ricevere l'eredità della contessa Anna Maria Colleoni, deceduta nel 99, e prendere possesso dunque dell'agognato Buon Ritiro di Monte Carlo. Tanto che, ricorda Franco Bechis, allora fu solo il Sole 24 Ore che nel 2000 pubblicò, dopo quell'approvazione di una legge, un corsivetto il 14 luglio 2000 col titolo Camere Sprint per l'eredità contesa. E l'argomento fu centrato così. C'è da chiedersi come mai una norma secondaria abbia avuto tanta fortuna. Forse la risposta sta in un fatto di cronaca non tanto lontano, quando poco più di un anno fa una facoltosa signora è spirata, lasciando in eredità a un partito politico una cospicua parte della sua fortuna valutata in svariati miliardi. Però quel partito, come quasi tutti, è un'associazione non riconosciuta e quindi non avrebbe potuto accettare l'eredità se non chiedendo di essere riconosciuto entro un anno con deposito nel nome degli iscritti, pratica da sempre abortita da partiti e sindacati. Come risolvere il problema? Cambiando la Bassanini e il codice, proprio come è stato fatto con una legge del 2000. Certo, si tratta di una coincidenza. Così denunciò il Sole 24 Ore nel 2000, oggi Libero lo ripropone dicendo: ecco la legge che Fini ha fatto cambiare, o meglio, è stata cambiata in tempo zero al Parlamento per permettere ad Alleanza Nazionale di avere a disposizione questo patrimonio di cui oggi si discute molto. Vabbè, la politica è tutta qui. Detto che anche prima del traffico rischia di passare in secondo piano il fatto che oggi, molto probabilmente lo spiega il Messaggero a pagina 5, il ministro Paolo Romani diventerà il ministro dello sviluppo economico, sostituzione dunque di Scajola. Ministro dello sviluppo Paolo Romani, oggi, salvo altre sorprese. E di sti tempi con la politica bisogna aspettarsele. In primo piano. Il TAR Lazio blocca il rincaro dei pedaggi sulle autostrade. Abbiamo sentito la situazione del traffico, che nei prossimi giorni sarà davvero da bollino nero. Attenzione, tra l'altro, perché c'è il nuovo codice della strada che entra in vigore da domani. E tra l'altro voglio ricordare, il lunedì il Sole 24 Ore darà in regalo la guida pratica che illustra tutte le novità del codice stradale, quindi segnatevi l'appuntamento e comprate il Sole, in particolare lunedì prossimo. E che cosa succede invece? Il TAR del Lazio: siamo un paese in cui nella manovra sono stati messi dei rincari, dei pedaggi, le autostrade, e un TAR ha fermato tutto. Ha accolto il ricorso della provincia di Roma, di alcuni comuni della provincia di Roma, del Codacons e di altri. Sta di fatto stop al caro pedaggi. A pagina 6 del Sole 24 Ore, il TAR del Lazio ha sospeso la norma della manovra che ha disposto l'introduzione di un pedaggio sui raccordi autostradali e stradali, in attesa che siano realizzati i caselli. Perché? Cosa si è stabilito? Che è una tassa spacciata per tariffa senza dare servizi aggiuntivi, e dunque tutto bloccato, aboliti i nuovi pedaggi appena approvati nella manovra. A pagina 6 del Sole si spiega tutto quello che succede a questo punto, legato al traffico. Oggi è spettacolare, lo voglio leggere, Massimo Gramellini col suo Buongiorno. sulla stampa, le ore contate in prima pagina. Una splendida notizia per i collezionisti di orologi. D'ora in poi a Napoli chi guiderà un motorino senza casco riceverà dal vigile, unitamente alla multa, uno swatch in regalo con la scritta «Senza casco ho le ore contate». Non è un monologo del compianto Troisi. A Napoli chi verrà sorpreso a guidare un motorino senza casco riceverà veramente in regalo un orologio. Ma non è geniale? Tu fai un'infrazione e io ti do un premio, e pazienza se ti do anche la multa che quasi sicuramente non pagherai, e se l'orologio contiene una terribile minaccia intesa a responsabilizzare i minorenni, che ovviamente sbianchetteranno la scritta e venderanno l'orologio al mercato nero. Considerate le dimensioni del fenomeno, a Napoli gli unici caschi in circolazione si trovano nei parrucchieri per signora. Coprire la richiesta di orologi richiederà uno sforzo industriale non indifferente. Ci tranquillizza sapere che la regione Campania, cui si deve la brillante iniziativa, pagherà il conto senza problemi. Si è appena lamentata dei tagli di Tremonti, ma non lesinerà certo i soldi a un'opera di bene. Personalmente sono orgoglioso di contribuire alla sua realizzazione col piccolo obolo delle mie tasse. Chiedo soltanto l'applicazione di un minimo di par condicio. Ogni volta che a Torino lascio l'auto in sosta vietata, gradirei ricevere dal vigile un pacchetto di gianduiotti. Queste le ore contate di Massimo Gramellini. A proposito di traffico, che ha fatto Fabrizio Corona? Uno che, come dire, si mette nei guai con la stessa frequenza con la quale noi ci alziamo la mattina. Incontrare Corona in auto, ovvero come rischiare la pelle in autostrada. Ferruccio Sansa racconta sul Fatto Quotidiano, a pagina 8, l'incontro in autostrada con Fabrizio Corona. Sono sull'autosole con la mia macchina, traffico, camion, 131 km a Milano. A un certo punto arriva un UFO, giuro. Non ho avuto il tempo di accorgermi. Dal buio spuntano quattro fari con gli abbaglianti. Non capisco se è un'auto o un Boeing al decollo. Sento una sberla di vento, una tromba d'aria che mi sbatte a destra. Taglio la strada a un tir. Questo è Ferruccio Sansa che racconta. E che faccio? Prendere la targa? Non fatemi ridere. Dopo 3 secondi quella pallottola è sparita. È andata bene, mi dico. A un certo punto mi viene da chiamare la polizia stradale a dire: guardate, mi sono accorto che c'è una Bentley, questo l'ho visto, che corre a velocità folle. Intanto vedo un autogrill San Martino Est, mi fermo, mi basta una camomilla, ma ecco la sorpresa, vedo la Bentley lì. Allora che fare? Affronto il conducente a muso duro? Scrive Sansa, non mi picchio da quando facevo le elementari. Poi vado lì, busso al finestrino, questo abbassa ed è Fabrizio Corona. Mi scusi, ma lo sa che lei mi ha quasi ucciso? Chi cazzo sei? Risponde Corona. No, lei mi ha quasi ucciso. Che cazzo vuoi? Risponde Corona. Il finestrino si rialza a tutte le mie domande. Ma scusi, non le avevano ritirato la patente? Non le avevano sequestrato una Lamborghini? La Bentley riparte, sgommando, più veloce di prima. Questo è il racconto di Ferruccio Sansa e il suo incontro con Fabrizio Corona in autostrada. Noi, tra l'altro, Corona oggi, ecco appunto, si mette nei guai con la stessa frequenza con cui noi ci alziamo al mattino. Corona e Mora, nuovi guai, evasione da 17 milioni di euro. Questo è pagina 20 di Repubblica. Comunque noi parliamo di qualcosa di affine, visto che Corona qualcuno l'associa ancora a Belen Rodriguez nel nostro sondaggio. Belen, la coca, la cocaina, gli sviluppi dell'inchiesta a Milano, e qualcuno dice non deve condurre Sanremo, no? C'è stato il caso Morgan. Secondo voi è giusto che non conduca Sanremo? Radio24.it, dovete votare lì. Che dire ancora? Sì, la notizia conclusiva della rassegna stampa è questa. La troviamo su tutti i giornali, se non altro per quella regola giornalistica, come scrive il giornale, che essendo un unicum, essendo la prima volta che accade, diventa una notizia. Per pregare con il Papa si pagherà il biglietto. Il Papa dal 16 al 19 settembre prossimo andrà in Gran Bretagna, un viaggio che per le disastrate casse della Chiesa Cattolica del Regno Unito non è forse ben accetto, e quindi bisognerà pagare un biglietto fino a 10 sterline o anche 15-20 sterline per pagare col Papa. E il portavoce Vaticano dice: non è un biglietto, è un contributo volontario. Però certo, su tutti i giornali, anche di Repubblica, biglietto d'ingresso per la messa, bufera sul viaggio del Papa. Ma come? Si paga per vedere o pregare col Papa? E questo è, cambiano i tempi. Alle 8 e 16 minuti, eccoci in diretta ancora con 24 Mattino, con la nostra in partenza Deborah Rosciani. Soldi e dintorni. Eccoci qua. La tortorella sta per spiccare il volo. Tutta allarmata perché ascoltava Via Libera. Guarda, cioè se già mi si sta formando la coda in questo momento, figuriamoci cosa non potrà accadere oggi parte. Tra oggi le 3 e le 4. Anche Deborah va in vacanza. Ecco, anche io vado in vacanza. Sì, smettila di brindare. L'Alpino Bescapè va in vacanza. Benissimo, guarda, c'è un sospiro di sollievo globale, mondiale. Allora, questa mattina per l'ultima puntata di Soldi e Dintorni lo faremo questa mattina di una rivoluzione nell'ambito di un servizio appunto di Poste Italiane di cui si è parlato molto negli ultimi giorni su diversi giornali. Vi leggo due titoli: Il Postino non suona più il sabato sul Corriere della Sera di mercoledì, Il Postino invece suona sempre due volte sulla Stampa sempre mercoledì. Poi stamattina abbiamo trovato anche questo nuovo arguto articolo di Sergio Rizzo, come sempre, che si torna ad occupare un po' delle molteplici attività in seno a Poste Italiane: voli charter, telefoni e assicurazioni. Se il Postino non si occupa di posta, questo articolo di Sergio Rizzo conclude, visto che l'amministrazione postale prevalentemente si occupa d'altro, perché in questi anni ha investito in tante iniziative, adesso non ne rifacciamo di nuovo tutto l'elenco, non sarebbe meglio cambiargli nome alle poste o magari che qualche altra azienda si occupasse di portare la corrispondenza a casa negli italiani? Parto da quest'ultima domanda che si fa Sergio Rizzo, perché in realtà questo è un mercato che si andrà presto liberalizzando, anche se è una rivoluzione epocale. Comunque questa liberalizzazione del mercato dei servizi postali dovrebbe concludersi fra il 2011 e il 2013, quindi un biennio, e c'è ancora un po' di tempo. E in vista di questo appuntamento molto importante, come vi dicevo, Poste Italiane ha riorganizzato uno dei suoi servizi più importanti, tradizionali. Arriva questa rivoluzione che riguarderà proprio l'attività di 35.000 portalettere italiani. Allora, che cosa succede a partire da gennaio? Ce lo racconta Agostino Mazzurco, responsabile della comunicazione di Poste Italiane. Mazzurco, buongiorno, benvenuto a Soldi e Dintorni. Buongiorno. Allora, il Postino torna a suonare due volte e la stampa lo ha fatto mutuato il titolo di un celebre film con Jack Nicholson dal 1 gennaio del prossimo anno. Cosa succede? Che cosa sono questi nuovi orari che entrano in vigore per quello che riguarda l'ambito dell'attività della consegna della posta? Beh sì, innanzitutto voglio proprio dire, noi sarà sempre la posta uno dei primi obiettivi per l'azienda, quindi consegnare la posta per noi sarà sempre una delle priorità. Che cosa cambia? Sicuramente quello che cambia è proprio l'orario di consegna della corrispondenza. Noi vedremo sfrecciare i portalettere anche durante il pomeriggio, quindi anche durante la fascia del pranzo, dove molte persone rientrano, e quindi il portalettere li potrà trovare a casa, soprattutto per poter consegnare tutta quella corrispondenza a firma, quindi le raccomandate e le assicurate. L'altro grande cambiamento sarà quindi proprio la consegna a orari e a giorni concordati, quindi i cittadini che non sono a casa, i cittadini che si spostano, i cittadini che hanno necessità diverse, potranno concordare con Poste Italiane il giorno e l'orario per la consegna della corrispondenza. Dottor Mazzurco, quali di questi servizi rimarranno gratuiti, quali invece avranno bisogno dell'applicazione di una commissione? Perché immagino che un servizio su misura in qualche maniera costerà all'utente, al consumatore, al cittadino. Allora, il servizio universale chiaramente è garantito per tutti, continueremo a consegnare i portalettere, continueremo a consegnare la corrispondenza ordinaria a tutti gli italiani e soprattutto con questa fascia di orario, quindi anche nelle case singole dove normalmente non c'è mai nessuno riusciremo a consegnare la corrispondenza. Ci sono alcuni servizi che vanno concordati che però avranno tariffe veramente molto molto basse, cioè sto parlando veramente di tariffe molto molto basse. Che rimarranno sempre così, oppure in questa, perché so che in ogni caso questa rivoluzione, continuiamo a definirla così, parte dal 1 gennaio e avrà una fase sperimentale, poi in qualche maniera reinterverrete anche sui costi appunto applicati a questi servizi aggiuntivi? Poi magari ricordiamo anche agli ascoltatori un po' meglio tutti gli orari. Sì. Ecco, allora, intanto il servizio avrà una fase sperimentale dal 20 settembre al 10 di ottobre su 10 città italiane per 3 settimane. Sarà una fase sperimentale e poi partiremo subito, non partiremo il 1 gennaio. tutte le aree metropolitane, tutte le aree, diciamo così, provinciali, entro il 31 marzo del 2011 saranno già tutte a regime, quindi portalettere faranno già l'orario su 5 giorni e il pomeriggio e il sabato saranno già organizzati per consegnare la corrispondenza il pomeriggio e il sabato mattina. Mm. Allora, vorrei fare proprio un riepilogo per far chiarezza agli ascoltatori, per far capire loro proprio che cosa cambia. Allora, la consegna della corrispondenza prioritaria, raccomandata e commerciale verrà eseguita da lunedì a venerdì dalle 8 alle 16. Intanto ricordiamo che il portalettere non arriverà più il sabato, dottor Mazzurco, giusto? Giusto, giusto. Ecco. Sabato, anche perché il sabato era veramente difficile consegnare la corrispondenza in molti posti, i portieri non c'erano, i condomini non c'era nessuno, quindi anche solo farsi aprire il portone era difficile. Quindi avete esteso, diciamo, la settimana. Poi dalle 14 alle 20 saranno invece forniti servizi su misura, e questo è l'aspetto più teoricamente innovativo, no, di tutto questo nuovo progetto sperimentale, poi qualcosa di più che sperimentale. Sono cambiate le esigenze, di fatto gli italiani hanno proprio cambiato le abitudini. Mentre una volta qualcuno c'era sempre a casa la mattina, oggi non è più così, quindi noi abbiamo proprio adattato il nostro modello di recapito alle esigenze reali dei cittadini e degli italiani, che hanno oggi esigenze sicuramente diverse da quelle che avevano forse 30 anni fa. Non c'è solo questo, lo dicevo anche all'inizio, dottor Mazzurco, c'è anche un mercato che, anche se immagino tutta questa liberalizzazione in questo settore avverrà molto, molto lentamente, ci sono state addirittura delle proteste in sede europea, ma questo poi ci riguarda relativamente. Di fatto è un mercato che nel tempo andrà liberalizzandosi, forse Poste Italiane, che comunque credo che sarà scalfita anche con grandi difficoltà da qualche altro attore che entrerà appunto in questo mercato. In ogni caso è anche un modo per trovarsi pronti a queste nuove sfide, immagino, o no? Ma noi ci stiamo preparando da tempo a questa sfida. Certo che pensare che sia remunerativo consegnare la corrispondenza in un paese come l'Italia, che da un capo all'altro è 1500 chilometri, consegnare corrispondenza in 24 ore come facciamo noi oggi non è certamente facile, insomma, e comunque ritengo non è neanche veramente così remunerativo come si può pensare. Il mercato postale di fatto è già in buona parte liberalizzato, i pacchi raccomandati e assicurati sono già comunque un mercato assolutamente già libero. Allora, c'è un'altra cosa che invece è partita a luglio ed è il progetto che si chiama Dimmi Quando, è già come dire operativo e rientra nell'ambito della rivoluzione da cui siamo partiti, dottor Mazzurco, è un'altra cosa? No, allora, quello è un progetto che era già partito, era collaterale a quello che stiamo facendo adesso, è una cosa molto utile, infatti la ricordiamo proprio anche per gli italiani. Ci sono questi servizi nuovi che si chiamano Dimmi Quando, che questo significa proprio dimmi quando vuoi che ti porto la corrispondenza. Se un cittadino, per esempio, decide che è in una città soltanto il sabato, dice l'azienda portami la corrispondenza il venerdì pomeriggio o piuttosto che il sabato mattina. Ci sono servizi come il Chiamami, che quando un cittadino ha necessità di ricevere una raccomandata chiama telefonicamente e dice portatemi la raccomandata in quella fascia dalle 5, dalle 19 alle 20, ma mi portate quella raccomandata. Oppure anche altri due servizi molto importanti, che è quello di Aspettami, che è molto utile oggi. I cittadini che vanno in vacanza possono chiamare Poste Italiane, andare in un ufficio postale, fare una richiesta e dire tienimi la posta ferma che io rientro in città il 30 di agosto e portami la corrispondenza il 30 di agosto, e noi lo facciamo. Oppure questo servizio che si chiama Seguimi, che permette ai cittadini di farsi seguire la corrispondenza, scusate se la dico così, quindi un cittadino che decide di spostare un mese in vacanza, due mesi in vacanza, può dire all'azienda di spostare la sua corrispondenza da una città all'altra. È possibile farlo sia con le corrispondenze ordinarie che con la posta firma, quindi raccomandate e assicurate, sia in Italia che all'estero. E insomma, tante novità. Allora, chiaramente, per averne tutte le informazioni, ogni cittadino immagino si possa recare presso ogni sportello delle Poste, che come sappiamo ha una penetrazione assolutamente capillare in tutto il paese, quindi conoscere ogni dettaglio. Mazzurco, chissà se abbiamo, anzi qua lo dico anche ad Alessandro perché lo conosce molto bene, tranquillizzato tra virgolette Sergio Rizzo, che oggi si occupa di questa faccenda. Le Poste sono a quanto pare del tutto intenzionate a mantenere l'attività tradizionale, Alessandro, poi magari la prossima volta che sentiamo Sergio. Glielo chiediamo, insomma, sì, se si è tranquillizzato. Mazzurco, grazie per essere stato con noi. Buona giornata. Grazie a voi. No, grazie tra l'altro, non gli avevano anche detto che avrei citato questo articolo, quindi magari. Allora, l'ultima eccoci puntata qua di Salvadanaio. Che in vacanza? Ah, no, prima no, c'è no, sì, c'è l'ultima incombenza dell'anno, delle 12, no, l'incombenza relativamente. C'è la riforma del credito al consumo che oggi, bene, viene varata dal Consiglio dei Ministri, la raccontiamo ai nostri ascoltatori. E quindi lunedì non ci vediamo? No. Le 8:30 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Parliamo dunque di droga, della vicenda che ha coinvolto sicuramente Milano, alcuni locali e nello specifico nell'occhio del ciclone è finita Belén Rodríguez. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? In questa inchiesta che è finita sui giornali qualche giorno fa è bastata una dichiarazione di un verbale di un interrogatorio risalente al 2008 in cui Belén ha detto un paio di volte, in due occasioni ho provato la cocaina, mi dava tutto Francesca Lodo, che vabbè poi l'ha querelata, mi invitava anche ad andare in questi locali, nei bagni dell'Hollywood, le domeniche in cui eravamo tutti con l'Ele Mora, ma io non lo seguivo perché temevo l'effetto della cocaina. È bastata questa dichiarazione a dire della fidanzata d'Italia, come qualcuno ha definita, di Belén, ora non vada a Sanremo. Il nuovo caso Morgan, ora non vada a Sanremo. Qualche frase sui giornali di Belén Rodríguez in questi giorni, la danno molto arrabbiata: avevo 20 anni, ora sono un'altra donna, un fatto privato, ho sbagliato questa cosa, ora mi stanno massacrando. Che ne pensate? È giusto che non vada a Sanremo? C'è un po' di ipocrisia in tutto questo? Dovete votare su radio24.it. intanto io voglio salutare, ne parliamo con, diciamo, due che hanno posizioni diametralmente opposte: Alessandro Meluzzi, psichiatra, buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno a voi. Che è per, diciamo, Belén non vada a Sanremo, così la identifichiamo i nostri ascoltatori. Saluto anche Mario Adinolfi, buongiorno, vice direttore di Red TV. Buongiorno Adinolfi. Buongiorno, buongiorno. Intanto ci aiuterà anche a capire qualcosa sul mercato della droga il direttore del Dipartimento della Dipendenza ASL di Milano, Riccardo Gatti. Dottor Gatti, buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno. Allora, Meluzzi, io mi volevo oggi tenere lontano dalla politica, anche perché ne parlerà Oscar Giannino alle 9 di quello che è successo ieri al Putiferio, ma com'è che lei oggi sul Libero accosta Fini a Belén Rodríguez? Questa non me, ho parlato anche della sindrome di Fini Belén. Fini Belén addirittura. Le spiego subito, è una sindrome, la chiamerei una sindrome di narcisismo primario acritico, che di alcune psicologie, che qui singolarmente mi permetterei di accostare un po' sul piano dell'anamnesi Gianfranco Fini e Belén Rodríguez, perché come molti narcisisti vengono, anche come me per esempio, vengono da un'infanzia e da un'adolescenza difficile, dopodiché hanno avuto alcuni successi più o meno meritati, alcuni veramente sorprendenti, come nel caso di Fini, che essendo passato dall'essere segretario del Fronte della Gioventù a segretario di un piccolo partito piuttosto escluso e perseguitato come l'MSI, ad essere poi la terza carica dello Stato, ecco, direi un successo sorprendente che neppure lui nei suoi verdi anni sofferti avrebbe mai osato immaginare. E che c'entra con Belén? E lo stesso vale per Belén Rodríguez, che è stata una ragazza povera, in difficoltà, di un villaggio nella zona di Buenos Aires, venuta fortunosamente in Italia senza neanche permesso di soggiorno, e che per una serie di circostanze, in parte dovuta alla fortuna, in parte dovuta al merito, alla bellezza, all'avvenenza, è diventata famosa. È diventata, come dire, la star delle star. Bene. Queste persone, che sono state baciate dalla fortuna, a Roma si direbbe qui ha detto bene, no? Tendono ad un certo punto, come dire, anziché a continuare ad avere un atteggiamento critico e autocritico verso se stessi, a circondarsi di un clan, quella che io chiamerei iniziazione clanica. Un clan, come dire, in parte familiare, come nel caso di Fini, la famiglia Tulliani e poi la piccola corte, che anziché, come dire, ridare dei rimandi anche critici, come avviene nel caso di una vecchia moglie, sempre piuttosto brontolona, critica. Qui invece no, fanno che cosa? Berlusconi ne sa qualcosa di questo, no? Per esempio, tendono a dire, non soltanto a dire sempre di sì, ad adulare, ma anche a dare dei continui rinforzi a qualcuno che è già molto rinforzato sul piano dell'io megalomanico, e che più di ulteriori, come dire, spinte alla, alla dilatazione e all'edema dell'io avrebbe bisogno, come dire, di qualche sana critica e autocritica. Questo non ce l'ha neanche Belen col suo clan. E questo anche Belen con tutta la sua corte, di cui è diventata la gallina delle uova più d'oro. Ma non ho capito la corte di Velemora, Corona, eccetera. E perché non dovrebbe questo, cioè, ho capito l'accostamento, insomma, anche con questa, appunto, anamnesi psichiatrica. Ma voglio dire, a questo punto perché non deve andare a Sanremo? Questo non l'ho capito. Cioè, no, perché? No, ma tutti devono fare. Allora, io non è affatto detto, come dire, che cosa deve fare ciascuno. No, sarebbe meglio di no. Ognuno quello faccia quello che vuole. Io dico che tutti quelli che stanno organizzando Sanremo, dico, è una cosa strana. È un po' come il Giro d'Italia o un po' come Miss Italia. È l'ultimo ridotto di un'Italia che tutto sommato però è ancora maggioritaria, sa, perché in Italia c'è il 95%, secondo una mia stima ragionevole, di italiani che non sniffa cocaina, e sono la stragrande maggioranza degli italiani, insisto, ci sono alcune milioni di persone che sniffano cocaina, ma c'è il 95% degli italiani di tutta l'età che non sniffa cocaina. Questa Italia è un'Italia, se vuole, minore, laterale, provinciale, non up to date, non sempre sui giornali, non sovrarappresentata nei media, che è fatta di normali brave persone. Queste normali brave persone, per esempio, sono quelle che facevano dire a un grande politico italiano che si chiama Massimo D'Alema circa una ventina d'anni fa che in Italia c'erano tre grandi istituzioni di cui si fidavano gli italiani: il Partito Comunista, l'Arma dei Carabinieri e la Chiesa Cattolica. Il Partito Comunista si è estinto, come dire, sciogliendosi, in una cosa piuttosto indefinita su cui non mi pronuncio. Ha subito qualche grande scacco, persino il prestigioso comandante, generale comandante di Grosseto, condannato a 14 anni a carcere, altri generali sono inquisiti. Quanto alla Chiesa Cattolica, è sottoposta a un processo di difficilissima e dolorosissima purificazione, comunque sottoposta ad attacchi di tutti i lati. Io credo che vada lasciata a quest'Italia, come dire, la possibilità di avere un Sanremo familiare, condotto da persone semplici, che non sniffano, che non vanno all'Hollywood, che non sono state sfiorate dal sospetto, come dire, di fare parte di cose. E quindi l'Italia normale. Il mondo ha ben altri palcoscenici. Va bene, no, ma è molto chiaro, l'Italia normale a Sanremo. Allora, Adinolfi, qui poi dopo su questa statistica, 95% degli italiani che non sniffano, chiederemo a Gatti. Ovviamente Adinolfi qua, vabbè, lasciamo stare, no, non so se si vuole produrre anche lei in un paragone Belen Fini. No, non ce la faccio, mi pare troppo. Belen Fini, effettivamente a quest'ora del mattino Belen Fini, però abbiamo seguito l'interessante ragionamento di Meluzzi. Perché anche arguto, insomma, perché Sanremo è l'Italia normale, insomma, questa mi sa proprio di mulino bianco, insomma, non c'è, non esiste l'Italia che si rappresenta a Sanremo. Se fosse testata antidroga, diciamo così, non rappresenterebbe sicuramente la proporzione 95-5 che faceva Meluzzi. Il ragionamento che parte da Morgan, diciamo, che si è avviato, è: se ti beccano vai fuori dalla comunità. Questa è l'idea. Insomma, tu per avere l'accesso al palcoscenico di Sanremo, ma non solo, diciamo così, devi fare in modo di beccare quanto vuoi, ma non essere mai beccato. Perché se poco provi a dire la verità, perché i due elementi che accomunano Morgan e Belen, secondo me, sono che entrambi hanno detto non richiesti, diciamo così, hanno fatto una confessione. Entrambi potevano benissimo sorvolare, non avrebbero avuto nessun problema. Invece, in un interrogatorio, in un'intervista, queste due persone ammettono quello che moltissimi di quell'ambiente fanno, e moltissimi del palco di Sanremo fanno, e moltissimi delle prime file, magari anche con qualche dirigente Rai, fa lì a Sanremo. Quando arriva un sindaco che dice: siccome Belen ha detto che ha preso due volte cocaina, allora non deve più venire a Sanremo, che dove raggiungiamo proprio la vetta, perché mentre sul caso Morgan si poteva anche discutere, perché tutto sommato Morgan aveva fatto anche un proclama di, come dire, esaltazione della droga, certo. Questa è una persona che dice di averlo fatto due volte, di essersi pentita, di non averla più usata, e fa i nomi di chi la usa abitualmente. Quindi, insomma, secondo me, davvero, a dare la croce addosso a una ragazza di 20 anni perché ha provato una droga, insomma, sembra veramente una cosa fuori dal mondo. Tra l'altro, su questo rappresenta molto quest'Italia, ecco, quest'Italia dove tutto si può fare, ma nulla si deve sapere. Allora, tra l'altro, oggi sul giornale in difesa di Belen, colpevole essere bella, questo ieri, mentre oggi Lanza scrive, me lo son perso. Ecco perché Belen deve presentare Sanremo. Oh, allora, io non, Riccardo Gatti, non so se lei ha un'idea nello specifico di Belen, però perché l'ho chiamata? Perché Riccardo Gatti è uno dei più profondi conoscitori del mondo del mercato della droga, dei consumi di droga in Italia. Allora, la questione è questa. Ieri, secondo me, Filippo Facci, opportunamente su Libero, scriveva: Belen prova la cocaina e lo dice. In Italia di cosa si parla? Si parla di Belen, non si parla del dramma della cocaina, della diffusione delle droghe, no? Anche questa è una distorsione del paese. Vorrei farla partire da questo come considerazione e anche dalla statistica che ci ha detto Meluzzi: il 95% degli italiani non sniffano. Che dice? Beh, se vogliamo parlare proprio all'ultimo punto, a Milano le persone che più o meno nell'ultimo mese, secondo le nostre statistiche e i nostri studi, hanno usato cocaina almeno una volta sono 20.000 e in un anno sono circa 40.000 le persone che si accostano a questo mercato nella città che viene definita oggi come città dove passano fiumi di cocaina. È chiaro che sono una grandissima minoranza delle persone. È chiaro però anche che se andiamo a vedere sulle fasce di età, attorno all'età 20-30 anni un ragazzo, una persona, un uomo su tre, metà le donne, hanno provato almeno una volta in vita la cocaina. Questa è una cosa che potrebbe preoccupare anche rispetto alla diffusione di questo mercato. Sull'altro discorso, secondo me, Facci ha ragione, cioè, ma è successo anche altre volte, è successo anche col caso Morgan, si è parlato soprattutto di Morgan, è successo anche con Tarantini un po' di tempo fa, droga, affari, donne, le donne usate per corruzione, per fare affari, e c'era anche la droga, della droga a un certo punto non se ne è parlato più, cioè io non lo so, ho la sensazione che della questione droga se ne parli soprattutto quando fa glamour ormai, mentre invece è una questione che è particolarmente diffusa nella nostra società e che ha una preoccupante collateralità, e lo vediamo anche a Milano, con tutta una serie di eventi di corruzioni, diventa quasi un oggetto di transazione, un oggetto transazionale per riuscire a creare dei legami sui cui si costruiscono dei malaffari. Di questo si parla, ma si parla molto di meno. Oggi ci tenta il Corriere riferendosi in realtà all'affare discoteche, ma io ho la sensazione che la diffusione di droga all'interno dei gangli della società civile non riguardi affatto solo le discoteche, ma riguardi la società intera. Non dimentichiamoci che poi alla fine dietro ci sono le grandi organizzazioni criminali che hanno bisogno di clienti VIP da una parte per fare affari e dall'altra parte di persone visibili, perché comunque il fatto che qualcuna di loro usi sostanze stupefacenti è comunque una pubblicità. Senta, ma di fronte alla frase che molti dicono, ma in fondo dai, si fanno tutti, no? Con quest'altra considerazione che poi non è proprio così, fortunatamente, però la diffusione c'è, è ampia, e quindi perché gettare addosso la croce, come dice Adinolfi, a semplicemente uno che solo perché l'ha detto, cioè si può fare ma di nascosto, se invece emerge questa verità diventa una gogna pubblica. Lei di fronte a questa considerazione cosa è portato a dire? Ma se consideriamo più ampiamente le droghe, io credo che se persone che hanno usato alcune volte in vita una sostanza non possono fare più il loro lavoro, è abbastanza un dramma. Tra l'altro c'è una posizione un po' paradossale, nel senso che se chi usa droga è una persona oscura, si cerca subito di pensare alla sua riabilitazione, al suo reinserimento, al fatto che possa mantenere il lavoro e tutta una serie di cose che vengono anche fatte dai nostri servizi per riaccostare e riabilitare le persone rispetto ad una condizione che magari è stata persa. Se invece una persona famosa deve perdere la possibilità di fare il suo lavoro. Detto questo, poi non voglio entrare nel merito di che cosa significa Sanremo e del significato che potrebbe giocare il fatto che una persona che ha usato droghe è presente in quella situazione. Dico soltanto che secondo me nel mondo dello spettacolo si rappresentano molte situazioni anche di dissolutezza, anche di devianza, diciamo così, dalla normalità, che non sono la droga, e su quelle situazioni non si discute nemmeno. Queste persone sono comunque delle star. Improvvisamente, in momenti particolari e in eventi particolari, si discute del perché una cosa che viene fatta deve impedire questo tipo di situazione. Il messaggio potrebbe essere anche abbastanza chiaro, cioè io voglio impedire in una manifestazione un po' popolare che in qualche modo si dia un cattivo esempio. Sì. Faccio notare che però il cattivo esempio casomai è già stato dato adesso, perché è adesso che si gioca la grande medialità sul fatto che per esempio Belen abbia usato droghe, lo stiamo già dicendo a tutti. Certo. Quindi poi alla fine il fatto che vada a Sanremo oppure no... Sì, sì, un po' un corollario, insomma, arriva alla fine... Yo soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Allora, Belen e la cocaina, è giusto che vada a Sanremo? È giusto che non vada a Sanremo? Così vi chiediamo. Secondo il 57% di voi, però, no. State votando su Radio24.it. Allora, Carla da Torino, buongiorno. Buongiorno. Che dice lei? Senta, io sono d'accordo che non vada a Sanremo, e ma perché? Non per una questione di bigottismo, perché io sono tutt'altro che bigotta, solo perché è una trasmissione in mondo visione, rappresenta anche a me che non sniffo cocaina, non faccio uso di stupefacenti, installo 13 ore di computer al giorno perché sono un'impiegata, mi sono stressata ma non trovo l'aiuto nella cocaina. Ma ho capito, ma lei adesso adesso onestamente lei, Carla, se vede oggi per esempio, se prende qualsiasi settimanale, troverà pagina 2 e 3 le pubblicità con Belen della team, gli spot, se accende la TV la trova ovunque, associa alla sua figura un'immagine di disgregazione morale perché ha assunto cocaina un paio di volte? Allora, se facciamo il governo fa la lotta contro la droga, mi fa adesso con le nuove regole dei nuovi partiti fanno i controlli degli stupefacenti, sì. Fanno la pubblicità progresso del ministero che la droga fa male, sì. Ci sono determinate categorie di lavoratori che vengono fatti on spot dei controlli, e io ne conosco uno personalmente che perché ha preso un antidolorifico è stato fermo dal lavoro. Quindi, cioè, tutti i certificati di questo modo. Quindi lei cosa propone? Non so. Vedere che prendeva l'antidolorifico perché aveva male. Va bene, gambe, ho capito. Però le chiedo, Carla, cosa. Sugli sci e aveva. Sì, va bene, ho capito. Questo è il caso concreto. Concretamente, cosa dovrebbe fare? Non vorrebbe più vedere Belen comparire in nessuna pubblicità. Non so. Glielo chiede, è una domanda, mi dica. Non dovrebbe. Non vorrei. Rappresenta anche me facendo la pubblicità di prodotti italiani che non mi drogo. Va bene, grazie Carla. Elisa da Roma, buongiorno. Sì, buongiorno. Senta, io ho 60 anni intanto. Andavo a scuola e mi insegnavano che il carcere era una struttura rieducativa e non costruttiva, giusto? E costrittiva. Sì. Allora dico io, questa ragazza venuta da dove non lo so, Argentina. Probabilmente povera, non lo so, ha visto il paese dei campanelli e avrà sniffato due volte. Premesso che io non sono contraria alla droga, però non è che dobbiamo demonizzare questa ragazza, mi sembra piuttosto un fatto tutto femminile di invidia, credo. Addirittura. Sì, perché noi siamo molto cattive, non so se lei lo sa, noi donne, forse lei lo sa. Ecco, quindi siamo invidiosi. Non mi permetto. Non facciamo squadra. Sì, no, lo dico, siete bene, sì, siete cattive. Oh, ma perché dice, c'è un complotto delle donne contro Belen, dice. No, ma non esiste. No, cosa ha fatto? Mi dica, cosa ha fatto per essere così condannata? Ha dichiarato lei che ha sniffato due volte. Madonna santa, e che sarà mai successo? Premesso che io la droga non la conosco perché all'epoca mia nemmeno c'era, insomma. Poi era tutto un altro tipo di. Però le dice c'è un po' di ipocrisia. Vediamo ma dai, un po'. Facciamo. No, ma se è interessante, vorrei da questo ad Inolfi e Meluzzi. Meluzzi, allora, ieri ieri Facci ha detto che lei ha scritto un articolo che sembrava scritto da un gesuita. Io questo lo considero un complimento, intanto per la mia grande ammirazione, il mio grande amore. Per l'ordine di Vabbè, ma magari Facci magari però lo diceva come dire fa il moralistone. In questo caso perché per la mia vita nelle comunità terapeutiche mi considero una specie di gesuita del Paraguay, come quelli del film Mission, non so se lo ricordo. Sì, no? Come no, straordinario. Considero la parola gesuita un complimento, primo. Seconda considerazione, non stiamo parlando di fucilare Belen, stiamo semplicemente dicendo che questa santa ragazza, Maria Betlem Rodriguez, perché Belen vuol dire Betlem, Maria Betlem Rodriguez, può fermarsi un giro. Cioè non è la fine del mondo. Ho capito, ma perde i contratti. Cioè, per inarrestabile carriera. Io non credo di essere invidioso di Belen. Ho una figlia della stessa età. Capito? Cioè credo che può fermarsi un giro dando un segnale di, come dire, cultura, di pacatezza, di buon senso. Ma fermarsi un giro che vuol dire? Che vuol dire? Tra 3 anni è purificata? Perché... Ma non è questo il problema, c'è un messaggio da dare. Nelle mie comunità ci sono centinaia di ragazzi che sono stati distrutti dalla cocaina. Deve passare il messaggio che chi sniffa cocaina è un cretino e paga un prezzo, paga dazio. Se si viene fermati alla sera avendo sniffato cocaina, la patente viene ritirata. Un camionista che ha sniffato una volta cocaina non lavorerà più col nuovo codice della strada. Ve ne rendete conto? Allora, quello che vale per un camionista, per un pilota d'aereo, per uno studente, non deve valere per Belen Rodriguez. Ma che razza di messaggio pedagogico? Vediamo, Adinolfi, allora, qua ci si pone questo problema. Si fermi un giro, dice... Ma Belen ha detto... di averla provata questa dichiarazione 2 volte e poi di non essere più andata in quel contesto proprio per evitare di trovarsi a prendere cocaina. Ha provato 2 volte la cocaina a 20 anni, è una cosa, come dire, che veramente se mettiamo sul palco degli imputati una persona solo per aver detto la verità che poteva tranquillamente non dire e poi avendola detta, diciamo, in un contesto giudiziario, quindi secondo me facendo il suo dovere di cittadina, quanti di noi avrebbero fatto un'ammissione del genere? Io la trovo semplicemente meritoria, tra l'altro conoscendola dico che è anche una ragazza di sani principi, cioè non riesco veramente a immaginare. Ah, lei la conosce personalmente, ma l'ha sentita in questi giorni perché la danno molto arrabbiata, no? No, c'ha talmente tanti problemi che non è avvicinabile in questi giorni, non le rompo le scatole, però sinceramente credo che sia una persona che esprime freschezza, serietà, bellezza della gioventù, che dà solo messaggi positivi. All'ultimo festival di Sanremo ha cantato con Toto Cutugno, ma ci vuole coraggio pure a fare questo, insomma, ha fatto un'opera di bene, vogliamole bene, insomma, perché davvero non mi sembra che si possa cominciare a mettere la croce addosso a tutti quelli che provano a dire la verità in un contesto e anche magari a smascherarlo, perché poi ha fatto nomi, non è stata reticente, si becca la querela di Francesca Loto, insomma, non riesco a immaginare la motivazione con cui si dice tu a Sanremo no, quando sul palco di Sanremo, dell'ultimo Sanremo, c'erano cantanti che nelle proprie autobiografie tranquillamente inneggiavano la droga come utilizzo per scrivere le canzoni. C'erano cantanti, 4 cantanti che erano sul palco dell'ultimo Sanremo, avevano tranquillamente ammesso l'uso di droga. Sentiamo che ne pensa Federico da Roma, buongiorno. No, signor Milan. Dica, Federico. Guardi, io non abbia fatto bene, abbia fatto male, giusto sì, giusto no, non posso dirlo. Personalmente ritengo che un esempio debba essere un buon esempio, quindi tutte le persone, tutte le ragazze che vedono questa situazione potrebbero essere indotte ad assumere cocaina. Però c'è un dato addirittura di fatto, cioè perché Belen ha detto l'ho fatto 2 volte e ho sbagliato, non lo farò mai più. Dove Belen si trova. Dove Belen si trova, in che senso? Cioè nel senso che posizione occupa, che adesso la vediamo in televisione. Ma io non lo so, io non è che se vedo l'immagine di Belen associo alla cocaina adesso. Lo so, ma noi siamo persone tutte vaccinate. Lei sì. Io dico semplicemente una cosa, mi perdoni, che come è successo per una famosissima modella, Belen adesso sicuramente raddoppierà i propri introiti dopo tutto questo. Ah, vabbè, ma io non credo che stia vivendo questi momenti come una manna già, per i suoi introiti. Non lo so, guardate, però è già successo. Quindi non facciamo i nomi perché comunque tutti la conosciamo. Vabbè, insomma, comunque io non ripeto questa visione, ce l'ho in modo un po' diversa, però intanto la ringrazio e che dire, sempre il sondaggio dice per il momento che il 59% non vorrebbe Belen a Sanremo. Io che dire, devo ringraziare tutti e devo chiudere anche perché oggi voglio rubare un minuto di tempo per fare qualche saluto, allora dicendo che ringrazio Mario Adinolfi ovviamente per essere stato con noi, Alessandro Meluzzi e Riccardo Gatti, come detto vado in vacanza, ci sarà Irene Zerbini, dunque continua 24 mattino tranquillamente, anzi inizia un po' prima credo, no? Dalle 7:15 lunedì. L'alpino Peter Bescapeva in vacanza. Avete capito che Peter Bescapeva con l'orgoglio dell'alpino è già in vacanza. Che dire, io poi saluto Sara Spreafico, oggi la saluto con particolare gioia, perché Sara Spreafico, quando tornerò qui, non ci sarà più. Così, no, non ci sarà più, ne sarà lunga vita Sara Spreafico, ma insomma rimarrà qua fino a metà agosto, poi prenderà altri lidi, altre strade, andrà. Che dire, grazie Saretta per essere stata con noi, averci pazientato, avere pazientato, averci sopportato, e tanti auguri, che ti devo dire. Mi manda anche un bacio, addirittura emozione. Allora, in finale, che dire, tutti buone vacanze se andate in vacanza, se no state qui. Radio 24 continua, ora Oscar Giannino, la politica, il PDL, la rottura Berlusconi Fini, e noi ci ritroviamo a settembre.